Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani e Salva Danaio, buona giornata a tutti. I tempi di crisi mettono seriamente alla prova la gestione delle finanze familiari e personali. Quante volte ne abbiamo parlato nel corso dell'ultimo anno, raccogliendo soprattutto le vostre testimonianze e le vostre esperienze, che ci hanno spiegato come siano periodi di scelte difficili, di rinunce, talvolta anche di rabbia e di disperazione. Sono però anche periodi che fanno crescere nei cittadini la necessità di conoscere e di informarsi in prima persona, avvicinandosi anche alle tematiche economiche spesso considerate inaccessibili, a volte anche noiose, e dalla consapevolezza possono arrivare anche scelte nuove ed alternative mirate ad un utilizzo più responsabile ed etico del denaro. Salva Danaio oggi affronta queste tematiche raccogliendo le testimonianze degli ascoltatori, come abbiamo fatto per tutto l'anno, naturalmente lo faremo anche oggi, continuiamo a farlo, presentandovi due libri che vogliono raccontare da due punti di vista diversi proprio lo spaccato di questo difficile momento che coinvolge in prima persona ognuno di noi nelle sue scelte di investimento, di consumo e di risparmio. Sapete che abbiamo inaugurato da qualche settimana i nostri venerdì di guida al libro da portare sotto l'ombrellone o anche in baita in montagna, se vorrete, o anche al lago, e noi questa mattina appunto abbiamo ripetuto questa esperienza, chiamando ad interagire con noi due autori. Il primo, che ci farà compagnia a partire dalla prima parte del nostro programma, è Marco Gallicani, esperto di economia e finanza alternative, autore del libro Il risparmiatore etico e solidale, che saluto. Gallicani, buongiorno e benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno a tutti. Buongiorno e grazie appunto per la sua disponibilità. Più tardi ci collegheremo con un volto televisivo molto noto, quello di Mirta Merlino, giornalista economica, autrice e conduttrice di molti programmi di successo negli ultimi anni. L'ultima fatica, che si è conclusa con la recente stagione televisiva ma che riprenderà a settembre, è sulla 7, L'aria che tira, e da questa trasmissione è stato tratto anche l'omonimo libro edito da Spelling e Kupfer, L'aria che tira, noi e i nostri soldi in tempo di crisi. Ci collegheremo con Mirta Merlino a partire dalle 12.30, intanto vi invito come sempre a chiamarci all'800 24 00 24 per raccontarci, intanto, visto che questo è stato un anno molto difficile dal punto di vista economico per tutti voi e per tutti noi, raccontateci quali sono i fatti che vi hanno colpito di più, in che maniera la crisi ha cambiato le vostre abitudini di consumo, di investimento e di risparmio, e magari le vostre esperienze le metteremo a confronto con i nostri autori questa mattina, anche per capire se ci sono delle cose che ci sono sfuggite, perché può essere anche successo questo: magari qualcuno nella crisi è stato pervaso da un grande pudore anche nel manifestare le proprie difficoltà, e allora raccontatecelo, perché saremo ben contenti di interagire con voi e di raccogliere anche queste testimonianze. Quindi quali sono anche i vostri dubbi e le vostre curiosità, e come è cambiato negli ultimi anni il vostro rapporto con il denaro? Vi interessa l'approccio etico alla finanza? Ci credete soprattutto? Perché noi altre volte abbiamo sperimentato questo argomento dai nostri microfoni e devo dire, e questo è il tema dal quale partirò con Marco Gallicani, che lo scetticismo chiaramente è l'elemento principale che determina i commenti dei nostri ascoltatori su questo argomento. Allora, 800 24 00 24, il numero verde per le vostre testimonianze, i vostri racconti, i vostri commenti, se volete intervenire in diretta, altrimenti avete anche le altre alternative, come sempre ci potete scrivere al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Potete anche andare su Facebook ad animare il dibattito il vostro social network all'indirizzo salvadanaio-radio24. Allora, rapidamente la borsa, prima di cominciare come sempre la nostra trasmissione. La borsa oggi è negativa, in Europa il finale di settimana è più prudente rispetto a come è andato nelle prime giornate della settimana, soprattutto rispetto a come si è chiuso una settimana fa. Abbiamo Milano in calo dello 0,6%, Parigi meno 0,8%, Francoforte meno 0,5%, Londra meno 0,17%. Oggi il mercato tiene sotto osservazione ancora le indicazioni di ieri della BCE, che ha visto al ribasso, ha rivisto al ribasso le stime di crescita del prodotto interno lordo dell'Eurozona per quest'anno e per l'anno prossimo. Si naturalmente conferma uno scenario recessivo per molte delle principali economie del vecchio continente, la disoccupazione continuerà a salire, i nostri risparmi continuano ad erodersi, la situazione sullo spread, la BCE la considera intollerabile, quindi invita i governi dell'Eurozona a fare tutto quanto è nelle loro capacità per mettere in piedi immediatamente il meccanismo quello che dovrebbe arginare l'aumento dello spread, che abbiamo visto a livelli davvero molto importanti, troppo alti, insostenibili per molti paesi, a cominciare dal nostro. A Milano ancora in corsa i titoli Mediobanca, che guadagnano appunto l'1,26%, in questo momento però il miglior titolo è Mediaset, che segna più 2, A2A più 1,47, Mediolanum più 0,8, in discesa abbiamo il Banco Popolare meno 2, Tenaris meno 1,90, Banca Popolare dell'Emilia Romagna meno 1,89%. Marco Gallicani, ancora buongiorno. Che profilo ha il risparmiatore etico e solidale? No, direi che è piuttosto variabile, non credo di poter dare una definizione univoca, sicuramente è un risparmiatore più attento, diciamo che non è un risparmiatore assopito, ecco. Non è assopito in che senso? Perché noi nei confronti delle nostre finanze forse abbiamo peccato anche di questo, ci siamo un po' addormentati. Sì. Io credo che il primo passo per arrivare verso una definizione di etica nella finanza sia sicuramente quello di riappropriarsi del proprio attivismo. C'era uno slogan al quale eravamo molto legati quando si raccoglieva il capitale per la banca etica alla fine degli anni 90, che diceva di tornare ad essere risparmiatori con due T. Decisamente la maggior parte della gente sceglie la banca attraverso motivazioni molto spesso sciocche o comunque insomma decisamente non all'altezza di quel che è il compito che spetta ai nostri soldi. Ricordo molto brevemente che le tre motivazioni principali attualmente le tre attuali motivazioni principali che gli italiani hanno per scegliere una banca sono la vicinanza a casa, la vicinanza all'ufficio o la presenza di una persona che conoscono, che sono motivazioni abbastanza insufficienti, certo, per scegliere. Che cosa è successo al microfono? Adesso cerchiamo di capirlo. Eccolo qua, un attimo, il nostro Matteo Come, se mi aveva premuto un tasto involontariamente che mi mandava un po', tipo sembrava un UFO, Matteo, e che essendo in procinto di andare in ferie magari può anche essere che ho la voce alterata dalla stanchezza in questo periodo. Gallicani, allora, in questo libro, che è molto piccolino, quindi in spiaggia lo si può portare con grande tranquillità, lei indica le 20 realtà più importanti di finanza responsabile e di microcredito in Italia, poi magari le spiegheremo ai nostri ascoltatori e le elencheremo, visto che 20 sono anche un percorso. A giudicare dalle letture che normalmente ci sono in spiaggia, questa è una lettura piuttosto coraggiosa, ecco, non c'è un erotismo spinto. Quello è vero, però date le batoste che abbiamo ricevuto con questa crisi, magari cominciamo a portarci in spiaggia qualche libro un po' più utile rispetto a quelli che vanno di moda recentemente, tipo le 50 sfumature di rosso, grigio e rosso. Io qua faccio una pubblicità negativa perché l'ho letto anche quello e non c'entra niente appunto con i miei interessi, ho fatto questa sciocchezza. Detto questo, senta, che non c'entra nulla questa divagazione, è possibile un utilizzo allora responsabile del denaro? Questa è una domanda molto importante, però lei come intende, come interpreta il concetto dell'utilizzo responsabile del denaro? Perché io credo che ogni padre di famiglia abbia questo obiettivo per proteggere il proprio nucleo familiare, naturalmente per poter permettere anche alla propria famiglia di poter fare una progettualità di lungo periodo. Quindi che cosa intende esattamente? Io penso che un uso responsabile del denaro, dopo poi sui termini normalmente, insomma, io accetto qualsiasi tipo di dibattito e ovviamente già soltanto l'idea di parlare di finanza etica ad alcuni potrà sembrare presuntuosa. Io penso che per un utilizzo responsabile del denaro si intenda soprattutto un utilizzo intelligente e quindi utile. L'intelligenza del denaro sta nella sua utilità. Io credo che il principale dei guai della finanza transnazionale attualmente al capo di gran parte delle dinamiche economiche mondiali sia il non essere utile se non che ad una piccolissima parte di persone. I ragazzi che negli Stati Uniti si sono inventati Occupy Wall Street, avevano questo slogan piuttosto efficace dell'1% contro il 9%. Normalmente sono, ovviamente gli slogan sono, tendono per loro natura al populismo o alla banalizzazione, però dietro c'è un pensiero efficace, cioè la finanza transnazionale non aiuta l'economia reale. Non lo fa perché non le conviene, non perché è cattiva o... Non lo fa perché non le conviene. Io credo che l'utilità del denaro invece stia nell'aiutare il maggior numero di persone a emergere da uno stato di insufficienza e di arrivare a soddisfare i propri bisogni. Non credo che in questo momento, ormai è qualche anno che io ne sono convinto, ma credo che la schiera di quelli che è d'accordo con me si sta allargando, non credo che in questo momento l'economia finanziaria, la deriva finanziaria, come io la chiamo, stia aiutando l'economia europea. No, anche perché effettivamente quando poi uno si trova in difficoltà non ha certo tempo di fare un ragionamento sulla distribuzione magari del proprio risparmio, delle proprie risorse economiche tra un mondo etico e quindi non è in grado di riconoscerle, un mondo meno invece etico e deontologicamente corretto, se la finanza potrà mai avere appunto una caratteristica di questo tipo. Come sempre facciamo, tiriamo fuori una pillolina dai libri appunto che presentiamo e sentiamo allora questa parte tratta dall'introduzione del risparmiatore etico e solidale. Sentiamo perché a Pietro Raitano non fanno il mutuo. Voglio comprarmi casa e in banca non mi fanno il mutuo. Eppure non sono proprio un ragazzino. Ho un lavoro dipendente, una famiglia, ma non ho abbastanza soldi né garanzie. Mi sento un po' Roberto Benigni che va in banca in Tu mi turbi. Ricordate? Per avere un prestito gli chiedono in garanzia lo stesso ammontare di soldi che chiede. Una scena comica, se non fosse che corrisponde alla realtà di tutti i giorni, per famiglie e per le aziende. Le banche e la finanza sono nate con un compito nobile: ridistribuire ricchezza, portarla là dove serve, remunerando chi la può mettere a disposizione. Uno scopo più che condivisibile. Il cuore di questo meccanismo è la fiducia. Ti presto soldi fidandomi del fatto che me li ridarai, con gli interessi. Ma da molto tempo la finanza ha distolto l'attenzione delle banche dalle famiglie e dalle imprese, concentrandola su ben più remunerativi prodotti speculativi. Le banche hanno finanziato armi e cementificazione. Hanno risposto agli azionisti in cerca di rendimenti sempre più alti, invece di rispondere a cittadini desiderosi di vedere tutelati i propri diritti e realizzati i propri sogni. Hanno smesso di fare il loro mestiere, alimentando un circolo vizioso di cui oggi assistiamo alle conseguenze. È successo anche con i mutui. E qui sta il paradosso. Negli USA hanno concesso mutui a chiunque, senza buon senso, prendendo rischi che poi sono stati diffusi come un virus nella finanza internazionale. Tanto che alla fine nessuno si è più fidato di nessuno e sono intervenuti gli stati a salvare il sistema. Da molto tempo, 30 anni almeno, un variegato mondo dal basso ha intuito questa deriva, rivendicando il diritto a una finanza utile. Una finanza che oggi, mentre tutti invocano la fiducia dei mercati, dia fiducia alle famiglie e alle imprese. Marco Gallicani, questo era un estratto del suo libro Risparmiatore etico e solidale. Peraltro il citato Pietro Raitano firma direttamente questo capitolo. Chi è, un suo collega? È il direttore di un mensile che si chiama Altra Economia, che parla di questi temi da più di 10 anni e lo fa, credo, con un'autorevolezza non banale. È un ottimo giornalista e quindi, come tutti gli ottimi giornalisti, che non sono poi così frequenti, ma insomma, come tutti gli ottimi giornalisti, ha saputo riassumere in modo molto efficace i contenuti del libro. Senta, allora è molto facile, no? Adesso qui la provo con un po'. Non che sia facile scrivere un libro come questo, perché naturalmente bisogna avere anche una conoscenza molto approfondita, esatto, di tutto il mondo della finanza etica, che appunto si sta ampliando sempre di più, e poi vedremo che cos'ha sotto questo cappello, a parte anche le questioni delle quali abbiamo parlato anche altre volte, perché noi abbiamo presentato per esempio l'attività di banca etica, abbiamo parlato molte volte dei fondi di investimento etici e quant'altro. Però in questo primo capitolo anche quanto abbiamo riportato del discorso di Pietro Raitano si dipingono, appunto ricordando anche la genesi di questa crisi, le banche come brutte e cattive. Non facciamo e facciamo difficoltà naturalmente a poterle dipingere in maniera diversa. Questo è tutto vero, è però anche vero, Gallicani, lei lo sa, che tutti quanti dalla banca non possiamo prescindere, nel senso che non possiamo tenere i soldi sotto il nostro materasso, poi possiamo fare tutto, naturalmente sostenendo anche tutte le questioni di sicurezza di una scelta di questo tipo. Non le sembra più utile magari scrivere un libro, perché io forse di questi in giro non ne ho trovati molti, su come poter invece trattare a testa alta con la banca e farla diventare un interlocutore alla nostra pari? Allora, ma questo in realtà, pur avendo un titolo che forse accarezza un po' il pubblico dell'alternativa, è un libro scritto assolutamente con quell'obiettivo. Cioè, io personalmente ho sempre discusso in modo molto animato con chi sosteneva che le banche sono semplicemente da evitare o da condannare. Le banche sono degli strumenti. Tra l'altro, la maggior parte delle banche che attualmente conosciamo sono nate dal basso, attraverso movimenti di persone che avevano l'obiettivo di portare appunto il denaro laddove ce n'era bisogno. Basti pensare alle banche popolari o a fine 800, inizio 900, alle banche di credito cooperativo, che ormai sono una rete assolutamente diffusa in Italia e nel mondo, o anche soltanto all'ultima che ho contribuito personalmente a fondare, che è Banca Popolare Etica. Le banche sono uno strumento e io penso addirittura, la maggior parte delle volte le paragono durante le conferenze che mi capita di tenere, agli ospedali. Hanno un ruolo sociale assolutamente determinante nell'equilibrio di un paese. Avevano, mettiamola un po' al passato, perché adesso ecco, allora, però il problema è che non si può confondere lo strumento con quel che gli stanno facendo fare e soprattutto non si possono confondere i tanti tipi di strumenti attualmente sul mercato con i fondi internazionali che magari muovono in una giornata grazie a una fibra ottica particolarmente efficace, da una borsa all'altra muovono il prodotto interno lordo di una zona dell'Europa. Sì, guardi, basti un grande fondo di investimento americano che clicca su un pulsante praticamente a mandare per aria il nostro spread, prende una posizione, io lo faccio sempre questo esempio, Pinco, il più grande gestore di fondi obbligazionari al mondo, esatto, basta una decisione di Mr. Bill Gross a mettere in ginocchio un paese come l'Italia. Stamattina vi abbiamo presentato, adesso continuerà a raccontarci anche che tipo di analisi è stata fatta, appunto, Marco Gallicani, esperto di economia e finanza alternativa, autore del libro Il risparmiatore etico e solidale, proprio per capire anche quali sono le realtà più importanti di finanza responsabile di microcredito in Italia, per chi non li conoscesse, avesse perso anche le altre trasmissioni che abbiamo dedicato a questo argomento. E poi noi questa mattina molto volentieri abbiamo voluto dare spazio anche ad una collega che dagli schermi della 7 fa un po' il lavoro a noi, mi passi il termine, concorrente, andiamo in onda peraltro anche in orari diversi, ma effettivamente c'è un'esplorazione della realtà e della quotidianità delle famiglie molto attenta, almeno questo è il compito che si è assunta negli ultimi mesi Mirta Merlino con la trasmissione L'aria che tira, e che ha riportato insomma tutte queste esperienze raccolte in questi ultimi mesi nel libro che porta lo stesso nome, naturalmente, della fortunata trasmissione televisiva. Mirta, buongiorno e benvenuta. Ciao, buongiorno, grazie, ben trovati voi, ti ringrazio. Io appunto, a proposito di quello che tu dicevi sui libri un po' pesanti da portarsi sotto l'ombrellone, diciamo che il mio libro ha, da un lato, certamente insomma rimane coi piedi per terra, perché è un libro che racconta tutte le sofferenze, le difficoltà che gli italiani hanno incontrato in questo difficile anno di crisi economica, però ho fatto veramente lo sforzo di renderlo il più possibile semplice, leggibile, ho fatto delle tabelle, ho fatto delle definizioni, cioè ho provato a far sì che sia un libro che veramente spiega le cose senza tecnicismi e senza difficoltà ulteriori. E poi soprattutto diciamo che è un libro che non è il mio libro, ma è la raccolta di un patrimonio inestimabile di voci che ci hanno fatto conoscere i loro drammi e le loro sofferenze durante quest'anno in televisione. Quindi io ho sentito davvero un po' la responsabilità di mettere nero su bianco tutte le storie che mi erano state consegnate in queste 200 puntate in diretta durante l'anno, in cui la gente è venuta da noi veramente a spiegare quello che succedeva. E tante volte, guarda, che era molto più chiaro sentirlo sulla vita vera delle persone che non leggendolo, diciamo, dagli articoli di giornale. Cioè gli esodati, per farti un esempio, che oggi tra l'altro vedo che sono di nuovo in pista, perché pare che il Parlamento voglia fare la controriforma delle pensioni. Ecco, sugli esodati noi abbiamo cominciato ad andare in onda con le loro storie a dicembre, quando ancora il tema non era diventato, diciamo, di cronaca corrente, però cominciava a serpeggiare. Sì, tantissimi per raccontarci questa situazione tremenda. Esatto, no, ti capisco benissimo in questo aspetto che sottolinei, perché effettivamente quando anche a noi arrivano le mail degli ascoltatori che ci chiedono una consulenza magari banale perché non hanno capito, faccio un esempio, usufruire della detrazione fiscale per fare la ristrutturazione in casa o tante altre cose, ti rendi proprio conto di come effettivamente anche un punto di riferimento per trovare le informazioni più banali sia molto difficile da trovare, e quindi qui assumiamo un ruolo di responsabilità estremamente estremamente forte che matura, ed è molto difficile qualche volta. Io mi ricordo, questo è successo in autunno, mi ricordo anche quando successe nell'autunno del 2008, quando esplose per la prima volta la punta massima della crisi, e avevamo molta difficoltà anche ad andare in onda, ogni tono di voce che utilizzavamo era sbagliato, e quindi in questi momenti effettivamente il nostro ruolo, anche se dall'esterno può apparire che facciamo un lavoro fortunato, questo è vero, però vi posso assicurare che il grado di coinvolgimento è proprio qualche puntata in collaborazione proprio con Radio 24 sotto quel cappello Disperati Mai che avevate lanciato voi, infatti volevo ricordare. E abbiamo avuto tanti imprenditori che venivano a raccontarci il loro dramma col fisco, che veramente in alcuni casi sono stati dei drammi atroci, come poi ci siamo resi conto, dato che siamo arrivati ai suicidi davanti alle agenzie delle entrate. Ebbene, sono veramente delle situazioni in cui si fa fatica, perché insomma alla fine certe volte l'emozione diventa anche più forte invece della capacità che uno ha di stare fuori dalle cose e dare una spiegazione logica a quello che succede. Stavo guardando sul sito della trasmissione, Mirta, ritorni a settembre naturalmente in onda, e avete questo link, sul link della trasmissione, chi rimandiamo a settembre, compila insieme a noi la lista dei rimandati. Mi ha divertito molto questa cosa, perché io ci ho pensato per qualche minuto e ho cercato di fissare un personaggio, voi suggerite, o uno del mondo politico, finanziario, sociale, di imprenditoriale, sindacale, che deve essere rimandato a settembre perché non ha raggiunto i risultati sperati alla fine di questa stagione. Io ho fatto un po' di fatica, troppo banale dire il governo, perché ha preso dei provvedimenti molto severi, io magari ce lo rimanderei perché ancora per la crescita del paese e per ritornare a fare i posti di lavoro. Diciamo che insomma questo governo ha fatto un gran lavoro, ha dovuto affrontare dei temi complicatissimi, toccando la carne viva delle persone, lo sappiamo bene, noi abbiamo raccontato come voi in diretta tutto quello che è successo una notte dopo la riforma delle pensioni e quanto è cambiata la vita di milioni di italiani. Abbiamo raccontato la riforma del lavoro con tutto quello che significa anche per le piccole imprese, perché sinceramente noi siamo venuti a dire molti piccoli imprenditori: signori, noi con queste nuove regole alla fine faremo fatica ad andare avanti, perché non è che possiamo assumere tutte le nostre partite IVA. Quindi abbiamo fatto delle cose veramente difficili, per non parlare delle tasse, ecco, sull'IMU per esempio. Io l'ho fatto quest'anno 30 puntate, tra l'altro molto aiutata dal Sole 24 Ore, devo dire, perché hanno del fior di esperti. Cristiano Dell'Oste, guarda, ce lo siamo conteso io e te, credo. Dell'oste Dell'Oste. Esatto. Però detto questo, gli italiani veramente hanno vissuto sulla loro pelle un sacco di cose molto molto drammatiche. A me la cosa che un po' mi ha sorpreso è che poi invece quando si tratta di fare poi l'altra parte, che è quella di cominciare a farsi venire delle idee per questo paese e a fare la famosa spending review, come dire, senza rimandi, un po' invece si fa fatica. Allora mi chiedo perché in una notte riusciamo a cambiare la vita dei pensionati, invece non riusciamo a fare dei bei tagli veri alla spesa pubblica che ci devasta, perché voglio dire il 55% di tasse che noi paghiamo ormai tutti, come ci dicono le statistiche, alla fine insomma gran parte vanno a finire in una spesa improduttiva che davvero è una zavorra per il paese, ma per tutti noi, ognuno di noi nel proprio lavoro. E per dirti, oggi leggevo sul giornale che finalmente ci dovrebbe essere questo accordo Italia-Svizzera per tassare i capitali depositati sui conti correnti all'estero, no? Sì. Che parliamo di 160 miliardi di euro italiani sfuggiti al fisco. Ecco, io questa la consideravo una grande urgenza. Adesso pare che finalmente Monti abbia fatto un incontro col presidente svizzero, Evelyn Widmer, e che dovrebbero vedersi a fine mese. Insomma, io l'avrei considerato un'urgenza quella lì. Cioè, quando tu chiedi agli italiani di pagare una tassa sulla prima casa in cui vivono con i loro figli, e quindi davvero una roba che si tocca nella carne viva, forse rivedere un po' le condizioni per chi ha messo i soldi all'estero e alla fine ha pagato uno scudo fiscale abbastanza ridicolo, ecco, insomma, quella roba lì. Un po' di urgenza. Sai che la vedo, sinceramente. Quando noi abbiamo affrontato la questione della tassazione supplementare appunto sui capitali rientrati da precedenti operazioni appunto di scudo fiscale, abbiamo avuto molto disappunto, lo hanno espresso, perché addirittura qualcuno aveva parlato di una violazione dei diritti dei contribuenti, c'era chi aveva addirittura sollevato una possibilità di fare un'iniziativa di class action, perché queste persone si sentivano ovviamente che lo Stato non avevano rispettato i patti presi con loro, però oggettivamente di fronte ad una famiglia con uno stipendio da operare notaio questi problemi devono essere un po' ridimensionati, ritengo. Anche perché appunto se parliamo di diciamo diritti acquisiti, mi sembra che il caso Esodati ci abbia insegnato che purtroppo ci siamo un po' dimenticati i diritti acquisiti, no? Quando tu ti chiedi a una persona che ha fatto un accordo con la sua azienda, sapendo che andrà in pensione fra 2 anni, avendo avuto quel tipo di buonuscita che gli permetteva di vivere quei 2 anni senza stipendio, di aspettarne altre 6, lo lasci nella disperazione di non avere né un lavoro né una pensione, diciamo che i diritti acquisiti sono andati un po' a farsi benedire, per cui insomma mi emoziono meno, devo dire, per chi ha messo i soldi in Svizzera. Allora, questo Esodato, Mirta, l'hai citato tanto, percepisco che è stato uno dei temi che ti hanno più appassionato in questo anno e noi abbiamo tirato fuori proprio dal tuo libro questa pillolina, sentiamo. La lettera di Stefano arrivò in redazione come uno schiaffo. Poche righe, un racconto semplice e chiaro, un finale sconcertante. Stefano aveva firmato un accordo con la sua azienda per lasciare il posto di lavoro e andare in pensione. Colpa della crisi economica, gli avevano detto. Ma nessuno lo aveva avvertito di un rischio diabolico, e cioè del fatto che la stessa crisi e una legge riscritta con superficialità avrebbero fatto sparire improvvisamente sia il suo lavoro sia la sua pensione. Possibile? Possibile, certo, perché Stefano era finito, a sua totale insaputa, nel girone infernale degli esodati, dove lo avrebbero raggiunto, in pochi mesi, centinaia di migliaia di lavoratori. Ingannati come lui, messi alla porta con una promessa non mantenuta, spogliati di un diritto, il lavoro o la pensione, e abbandonati a un destino buio come la notte di un paese inginocchiato e impotente di fronte ai suoi problemi. Insomma, poi tra l'altro di questa vicenda degli esodati, l'aspetto che a me un pochino, Mirta, non so se sei d'accordo, ha disturbato un po' di più è stato questo scontro che è stato ovviamente molto enfatizzato anche da noi giornalisti tra ministro Fornero e il presidente dell'INPS Mastrapasqua sulla questione del conteggio, no? Alla fine sembrava essere diventata proprio una questione di numeri e basta, come se non fosse poi altrettanto importante, ma una soluzione concreta per queste persone non si riusciva La settimana scorsa ho presentato il libro a Capalbio al Festival Capalbio Libri ed è venuto Mastrapasqua a presentarlo ed è esattamente la cosa che vi ho detto, cioè ho la sensazione che in questi momenti chi fa l'istituzione deve davvero sentire il peso della sua responsabilità, cioè il balletto delle cifre, il ministro Fornero che va in Parlamento e parla di un inevitabile margine di errore nelle statistiche, parliamo di decine di migliaia di vite, perché io come te, quelle persone le ho guardate negli occhi, le ho viste, le ho sentite parlare, sono gente che si trova in quella parte della vita in cui tu pensi di essere arrivato alla serenità, perché questa è la verità, che a 57 anni tu pensi di aver lavorato una vita intera, ho costruito una famiglia, mi sono dato da fare, adesso mi merito il riposo, la serenità, la vita con i nipotini, dedicarmi al mio hobby, cioè è quello che pensi di poter fare. Ora possiamo discuterne perché la vita media per fortuna avanza e quindi forse non è giusto che si vada in pensione così presto, quindi un ragionamento, un ripensamento va fatto, però da qui ad abbandonare nell'incertezza e nella fragilità più totale delle persone che hanno contribuito per una vita intera col loro lavoro a questo paese, insomma io lo trovo una roba veramente abbastanza ingiusta. E poi c'è un altro tema secondo me importante, che è come è fatta la società italiana, cioè questi signori qui, i 50-60 anni, sono quelli che sono i pilastri alla fine delle famiglie. La rete di protezione sociale, sì. Figli precari o disoccupati, che hanno sulle spalle gli anziani che il welfare non cura come dovrebbe. Quindi se tu in qualche modo depotenzi loro, è come mettere una bomba di profondità dentro la società italiana e fai crollare poi un po' tutto. E questa è la cosa che io ho sentito molto forte durante quest'anno. Sono una pensionata, ci racconta Tina, ciò che più mi crea disagio e non poca rabbia è la totale impotenza nel poter contrastare il sistematico aumento del costo della vita, anche questo è un tema lungamente trattato nel libro di Mirta Merlino, tasse incluse a fronte di una pensionata che non si può adeguare a tale, a fronte di una pensione che non possa adeguare a tale aumento. I libri vanno bene, ma il loro costo aumenta, si lamenta Tina, per cui anche lei che vorrebbe essere sempre ben documentata su quello che le accade intorno non può neanche farlo, perché anche addirittura l'acquisto di un libro diventa un lusso. Per quello che riguarda invece il ritorno alle banche, adesso ricoinvolgo Marco Gallicani. Riccardo ci scrive: le banche hanno prestato giustamente a molte persone soldi per acquistare casa e allora, avendo fatto questo, non sono state etiche? Ci metto anche la domanda, la riflessione di Gianluca da Ancona. Buongiorno Gianluca. Buongiorno. Ci dica. Guardi, allora, io sono un imprenditore, siccome prima parlavate delle banche di piccole, anche credito cooperativo e banche popolari, io lavorando sia con queste che con banche più grandi, vorrei portare un attimo un'esperienza di cui sono rimasto veramente sconvolto, veramente. L'ultima volta che ero in anticamera, io oramai la chiamo così, dal direttore, per poter risolvere qualche problema, anche se oramai non è più possibile risolverli, perché i direttori non comandano più niente, però mi sono sfogliato il bilancio di una della mia banca di credito cooperativo. Avendo una moglie dottore commercialista, ne capisco abbastanza di bilancio, e sono rimasto sconvolto. Perché? Voi parlate sempre di numeri, io gliene dico due numeri. Raccolta 2011 298 milioni di euro, è una piccola BCC, quindi i numeri sono abbastanza limitati. Quindi una raccolta tra risparmiatori, tra denaro, conti milioni. Correnti, obbligazioni bancarie, sì? Perfetto. Impieghi? Impieghi per famiglie e aziende 41 milioni. Ecco, lei dice insomma. Poi c'è tutta l'altra lista di voci, di cui la più grande 158 milioni, bot, bond, bot, BTP e quant'altro. Tra cui c'erano anche impieghi, altri impieghi, 50 milioni, però famiglie e imprese 51 milioni. Ora, i conti li sappiamo fare tutti, siamo intorno al 18% della raccolta, 18% di una banca di credito cooperativo. Cioè non stiamo parlando di Unicredit, di SPA. Chiaro. Gianluca, allora, guardi, voi mi dovete dire, onestamente, voi siete Radio 24, io sento sempre, ho aderito anche a Giannino, non si può più andare avanti così. Gianluca, oggi ho mandato in ferie i miei 8 dipendenti, sono riuscito a mandarli in ferie, io sono 3 anni che non vado, sono un imprenditore. Marco Gallicani, la testimonianza dell'ascoltatore di Ancona, della mia città, non ha bisogno di essere replicata. Lei lo racconta nel suo libro, a pagina 19, cosa fanno le banche. Una volta depositato il denaro viene investito. Che cosa è successo poi in questo meccanismo che dovrebbe essere sicuramente piuttosto virtuoso, no? Non conosco ovviamente la BCC della quale parla l'imprenditore. Mi sono molto toccato dalla sua testimonianza, ce ne sono addirittura anche di peggiori, che si sentono e si leggono sui giornali, e quindi io non posso esprimere da qui un giudizio sull'operazione che ha fatto la banca. È evidente che anche le banche di credito cooperativo che sono state coinvolte da quella che appunto noi chiamiamo deriva finanziaria, e quindi alla fine non si occupano più dell'economia reale ma soprattutto di quella finanziaria. Io dico però, e nel libro lo scrivo in modo molto esplicito, pur non essendo particolarmente vicino e senz'altro non sono stato sponsorizzato dalla rete delle BCC, però sicuramente se devo scegliere un soggetto bancario in quanto istituzione che si mette sul territorio dalla parte dei cittadini, beh insomma queste sono le piccole banche locali che tra l'altro sono anche molto più facilmente attivabili, perché si può diventare soci, si può entrare in assemblea eccetera eccetera. E però poi, anche loro questa si non sono è una difesa. No, no, allora qui non c'era da accusare nessuno, lui ha fatto semplicemente una lettura di bilancio e si è ritrovato molto colpito, no? Anche dalla gestione della tesoreria di questa stessa banca che comunque sì, ha... Questa è la deriva finanziaria che noi accusiamo da almeno 10-15 anni, le banche anche quando hanno per esempio prestato i soldi per le case, come diceva l'altro risparmiatore, lo hanno fatto sostanzialmente per allargare la platea di quelli a cui davano i mutui e non assumendosene il rischio, perché il caso dei subprime, che ormai è passato qualche anno e quindi la gente magari se l'è dimenticato, ma nasce proprio da questo atteggiamento poco responsabile, cioè hanno prestato denaro senza sapere se queste persone se lo meritavano. Esatto, il problema è che questa situazione ha fatto trovare in una situazione di totale disorientamento i risparmiatori, che sa molto facile adesso guardare al passato e riattribuire un po' responsabilità, il problema è che ora si deve guardare al futuro e imparare ad impostare un problema diverso con gli intermediari, con chi... Non l'hanno mica fatto perché erano buone e brave, l'hanno fatto semplicemente perché dovevano guadagnare di più da soggetti che erano al centro di un'espansione economica come quella che era l'immobiliare negli Stati Uniti, che prometteva grandi guadagni. Tra l'altro mi permetto di dire che la cosa è ancora più scandalosa perché nei primissimi anni lo scandalo dei subprime coinvolse soprattutto le fasce debolissime della società americana, gli ispanici, i neri, e nessuno ne parlava. Quando poi invece questa cosa è aumentata e ha toccato le fasce più normali della società americana, e soprattutto quando attraverso la cartolarizzazione dei rischi questa cosa è arrivata in Europa, allora è scoppiato lo scandalo. La la cosa era di per sé schifosa anche prima. Non avrebbe potuto essere più chiaro. Mirta Merlino, c'è un ascoltatore che invece ci scrive: voi continuate a parlare di esodati che hanno preso incentivi per lasciare il lavoro e potrebbero viverci, ma limitatamente, se poi il momento della pensione non arriva ed è rimandato troppo a lungo. Non parlate mai di chi lavora in proprio e non sanno come tirare avanti. Allora ribadiamo, adesso a prescindere dall'iniziativa Disperati Mai di Radio 24, c'è stato anche il grande rumore lanciato appunto dalle partite IVA, la grande mobilitazione della Sardegna e quant'altro, anche questo un lungo capitolo del tuo libro L'aria che tira. Sì, assolutamente, infatti diciamo, voglio dire, per carità, gli esodati è una cosa su cui io parlo molto spesso, perché è una cosa che è stata creata con un tratto di penna da un provvedimento del governo, e quindi insomma fa particolarmente impressione che poi il paese soffra tutto, non c'è dubbio. Anche il telespettatore precedente che ci raccontava degli impieghi della BCC, io sono molto d'accordo con le BCC, se ci sono delle banche che hanno una capacità un po' maggiore di stare vicino alle imprese, ai cittadini, sono le BCC, perché lavorano sul territorio, guardano in faccia le persone, le conoscono. Però appunto se pensiamo che la BCC della sua raccolta ne impiega il 18%, ci facciamo due conti su cosa fanno le grandi banche più lontane dal territorio, ci vengono i brividi. E d'altra parte, insomma, nel frattempo succedono cose incredibili in questo paese. Per esempio succede che ci sono migliaia di imprenditori che non vengono pagati dallo Stato. Esatto, cioè, l'altra oggi, piaga oggi la vergognosa. Lancia l'allarme sull'insolvenza delle imprese, ma io insomma continuo a pensare che l'insolvenza dello Stato è veramente una cosa incredibile. Il fatto che ci siano dai 70 ai 90 miliardi di euro, secondo le stime, a seconda delle stime, che lo Stato deve alle imprese private e che non paga. Le stesse imprese private, cosa gli succede? Che non riescono a pagare le tasse, non essendo pagate dallo Stato, e alla fine finiscono nelle maglie di Equitalia, che fa per carità il suo sacrosanto mestiere, però diventa un circolo vizioso che porta le persone alla disperazione totale. Io racconto tante storie di questo genere nel libro, di imprenditori per bene, che non sono evasori, sono persone che non ce la fanno più a stare dietro le scadenze perché non vengono pagati, e hanno questa follia per il quale, nonostante siano creditori dello Stato, sono perseguitati dal fisco per pagare poi le tasse. Ora, anche lì si è parlato di quattro grandi decreti che il ministro Passera ha annunciato. In uno di questi c'era la compensazione. Con i titoli di Stato, peraltro, no? Sì, ma insomma, c'era anche l'idea della compensazione tra crediti e debiti. Cioè, se io devo dare allo Stato l'IVA, ma lo Stato non mi ha pagato, azzeriamo, cancelliamo, bilancia. Come dire, è di buon senso, è una famiglia, ti verrebbe in mente subito, no? Devo dei soldi al fornitore, però nel frattempo gli ho venduto una... Cioè, e invece lì è diventata una cosa complicatissima. Questi decreti sono stati messi in gazzetta ufficiale il 22 di maggio, ancora non se ne ha notizia, cioè ancora ci sono imprese che aspettano di capire cosa devono fare, così pure con la certificazione dei loro crediti, che bisogna chiedere ai stessi funzionari che non ti pagano di certificarti il credito, e a quel punto puoi andare in banca a scontarlo, e anche lì è una roba molto farraginosa. Cioè, partiamo dalle cose che si possono fare subito. Cioè, io mi chiedo com'è possibile in un paese normale che lo Stato non dica: benissimo, ti devo un sacco di soldi, tu devi delle tasse a me, cominciamo a compensare quelle, almeno ti tolgo dalla situazione folle e spesso anche umiliante di essere un evasore tuo malgrado e di essere perseguitato da Equitalia. Quando io racconto nel libro la storia di Tiziana, che tra l'altro è una persona fisica, non è neanche un'impresa, che è una signora che lavora per i tribunali, e lei fa trascrive le intercettazioni telefoniche dei tribunali. Questa signora sono 3 anni che non viene pagata da alcuni tribunali, nel frattempo è perseguitata a cartelle di Equitalia che le pignorano man mano che arrivano i pagamenti, così che lei mai potrà riuscire a ripagare. Si arriva a delle follie per cui veramente c'è una simmetria tale tra noi e lo Stato, tra quello che lo Stato ci chiede, quello che lo Stato ci dà, che poi insomma... Ecco, non mi sorprendo più quando leggo delle rivolte fiscali di queste cose qui, perché nonostante io continuo a dire ogni volta che posto nelle nostre puntate le tasse si pagano, è un sacrosanto dovere, però insomma ci deve essere anche un minimo di buon senso, perché sennò poi finisce che la gente si dà fuoco davanti all'Agenzia delle Entrate, come è successo a Bologna, e insomma che noi diventiamo veramente un paese incivile alla fine di tutto ciò. Vorrei raccogliere l'ultima testimonianza di oggi, che è quella di Giovanni da Treviso. Giovanni, buongiorno. Buongiorno. Si ritrova nelle cose che abbiamo raccontato fino a poco fa? Certamente. Però volevo raccontarvi una mia esperienza con l'Agenzia delle Entrate. Cosa è successo? È successo. Sono venuti il giorno prima del 1° giugno. Quindi è una cosa recente, una vicenda recentissima. Adesso mi hanno dato ieri il verbale, l'altro giorno. Mi hanno chiesto le fatture da gennaio fino all'ultimo giorno che sono arrivati. Gli ho consegnato tutto. Non hanno trovato un articolo in nero, Sì. Hanno fatto un prezzo ponderato di 6 mesi di acquisti. Sì. Sono venuti un solo giorno. Hanno rilevato i prezzi di quel giorno. Mi hanno fatto un ricarico del 262%. Cosa vuol dire fare un ricarico del 262%, Giovanni? Vuol dire che io compro 100 e vendo il 262. Secondo loro? Secondo la ricostruzione del suo fatturato? Secondo loro io vendo compro 1 euro e vendo 2,62 euro. Ma no, adesso, rivedendosi al reddito del 2009. Cioè, una cosa assurda. Questo che cosa le comporterà, appunto? Mi porta un aumento imponibile del 75.000 euro del 2009. E quindi lei dovrà rimettersi in pari anche eventualmente con quanto le richiederà per questo arretrato presunto l'Agenzia delle Entrate, no. Giovanni? Devo dargli 50.000 euro. Tra sanzione e questo, devo dargli 50.000 euro. C'è una cosa assurda, Mi ha detto che non c'è scarto sulla frutta e verdura. Che noi compriamo, cioè, è una cosa assurda, vivo in un altro mondo, io non riesco a capire, questa gente, è tutta gente laureata, gente avvocati, non so, ingegneri, non so cosa, io non riesco neanche a capire, io li vorrei che venissero una settimana a lavorare con noi, a vedere come lavoriamo e cosa vuol dire, da notare che noi siamo tutti associati, vuol dire che ci rubiamo fra di noi, cioè io, ha capito? Giovanni, la ringrazio. Io ho un minuto di tempo prima di concludere e purtroppo devo salutarla, ma il nocciolo della questione l'abbiamo capita ed è un'altra delle situazioni paradossali che si verificano di fronte alle quali abbiamo sempre la sensazione della totale impotenza. Allora, 10 secondi, 15 secondi di tempo ciascuna, Marco Gallicani e Mirta Merrino che stamattina sono stati con noi. Gallicani, il primo lo concedo a lei. Come ci difendiamo da tutto questo? No, in realtà non ho una ricetta da 10 secondi. Io dico che dei nostri soldi dobbiamo assolutamente interessarci, perché ci interessiamo dell'agricoltura e scegliamo molto spesso quella biologica perché ci fa star meglio ed è più gustosa, e altrettanto dobbiamo fare con l'economia e la finanza. Io sostengo che la finanza etica e quindi banca etica, le MAG, il microcredito sono strumenti per stare su questo pianeta in modo migliore. Mirta Merlino. Ecco. Allora, io penso questo, io il primo capitolo del libro l'ho chiamato Evasori e Tartassati, perché infatti, quello che penso che la storia che ci ha appena raccontato l'ascoltatore è una storia verissima ed è una delle tante storie di artigiani, piccole imprese si trovano in crisi e hanno difficoltà a parlare con un fisco che sia in qualche modo umano e comprensivo. Ricordiamoci sempre, ahimè, che siamo il paese dell'evasione fiscale, che il 18% di evasione fiscale ce l'abbiamo, che parliamo di centinaia di miliardi che non arrivano alle casse del fisco, che quindi ogni volta che ci sentiamo tartassati e quindi, dobbiamo ricordarci che c'è qualcuno. La sensazione, esatto, Mirta, devo salutarti perché siamo in chiusura, la sensazione di colpirne uno per colpirne tutti, quell'uno è quasi sempre quello che agisce invece in maniera sempre totalmente trasparente e corretta. Io vado in ferie, ci sentiamo stasera a Focus Economia con Salvadanaio il 3 settembre. Buone vacanze a tutti.